Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. La casa apparteneva, continuò Bertuccio, al Marchese di Saint-Méran, suocero del signor de Villefort. Il signore di Saint-Méran abitava a Marsiglia e di conseguenza questa casa gli era inutile. Correva voce che fosse stata affittata a una giovane vedova, che si conosceva solo con il nome di baronessa. Infatti, una sera che guardavo al di sopra del muro, vidi una bella giovane di 18-19 anni, alta e bionda. Poiché indossava una semplice vestaglia e niente poteva impedirmi di vederne la corporatura, mi accorsi che era incinta e che la gravidanza era molto inoltrata. Pochi momenti dopo si aprì la porticina. Entrò un uomo. La giovane gli corse incontro di slancio. Era Villefort. Presi di tasca il coltello, mi assicurai che la punta fosse ben affilata e saltai al di sopra del muro. Mi ero appena nascosto che, ai soffi del vento che curvava i rami degli alberi, mi parve di distinguere dei gemiti. Trascorsero 2 ore, nelle quali a più riprese credetti di sentire i medesimi gemiti. Suonò mezzanotte. L'ultimo tocco vibrava ancora, cupo e sonoro, quando scoprii una debole luce illuminare le finestre della scala segreta per la quale noi poco fa siamo discesi. La porta si aprì e comparve Villefort. Era il momento decisivo, ma da molto tempo mi ero preparato. Presi il coltello, lo aprii e mi tenni pronto. Villefort si fermò vicino al gruppo di alberi, gettò uno sguardo intorno e si mise a scavare una fossa nella terra. Allora mi accorsi che teneva qualche cosa sotto il mantello, che depose sull'erba per essere più libero nei movimenti. Un po' di curiosità, lo confesso, si mescolò al mio odio e volli vedere ciò che era venuto a fare Villefort. Rimasi immobile, senza tirare il fiato, e aspettai. Quindi mi venne un terribile pensiero, che vidi confermato quando il procuratore del re cavò dal mantello una cassetta lunga 6 piedi e larga da 6 a 8 pollici. Lasciai che deponesse la cassetta nella fossa, che poi riempì di terra. Su questa terra smossa, pestò i piedi per fare scomparire l'opera notturna. Allora mi lanciai su di lui e gli conficcai il coltello nel petto dicendogli: «Io sono Giovanni Bertuccio, la tua morte per mio fratello, il tuo tesoro per la sua vedova. Vedi bene che la mia vendetta è più completa di quel che speravo». Non so se capì queste parole, ma credo di no. Cadde senza emettere un gemito. In un secondo risotterrai la cassetta con la vanga. Poi, perché nessuno si accorgesse che l'avevo portata via, riempii di nuovo la fossa, gettai la vanga al di là del muro e corsi fuori dalla porta. Corsi fino al fiume, sedetti sulla sponda e, incuriosito dal contenuto della cassetta, ne feci saltare via la serratura con il coltello. In un panno di fine batista era avvolto un bambino appena nato. Il viso era livido. Le mani violette rivelavano che era rimasto vittima di un'asfissia causata dal cordone avvolto intorno al collo. Allora gli liberai il collo dal cordone. E siccome ero stato infermiere all'ospedale di Bastia, feci tutto ciò che avrebbe potuto fare un medico in una simile occasione. Gli soffiai energicamente dell'aria nei polmoni. Dopo un quarto d'ora di sforzi inauditi, lo vidi respirare. E udii un grido sfuggirgli dal petto. Anch'io emisi un grido, ma un grido di gioia. «Dio allora non mi maledice!» mi dissi. «Se permette che ridoni la vita ad una creatura umana, in cambio della vita che ho tolta ad un'altra». «E che faceste di quel bimbo?» domandò Montecristo. «Era un bagaglio molto ingombrante per uno che doveva fuggire». «Per questo non mi venne l'idea di tenerlo. Ma sapevo che a Parigi c'è un ospizio dove accolgono queste povere creature. Mi fu indicato. Era situato in fondo a Rue Enfer. E dopo aver preso la precauzione di tagliare la fascia in 2 parti, in modo che una delle lettere che la contrassegnava rimanesse addosso al neonato, mi tenni l'altra. Deposi il fardello nella ruota e fuggì a gambe levate. 15 giorni dopo ero di ritorno a Rogliano e dicevo a mia cognata Assunta: «Consolati. Mio fratello è morto, ma l'ho vendicato». Allora mi chiese di spiegarle queste parole e io le raccontai tutto l'accaduto. «Giovanni!» mi disse Assunta. «Avresti dovuto portarmi quel bimbo! Lo avremmo chiamato Benedetto e per questa buona azione Dio ci avrebbe benedetti davvero!» In risposta le consegnai la metà della fascia che avevo conservato per poter reclamare il bimbo il giorno che fossimo divenuti più ricchi. Bertuccio riprese la narrazione. Io, un po' per scacciare i tristi ricordi che mi assillavano, un po' per provvedere ai bisogni della povera vedova, tornai a fare il mestiere di contrabbandiere divenuto più facile per l'indebolimento delle leggi, cosa che succede sempre durante le rivoluzioni. Le coste del Mezzogiorno in particolare erano mal sorvegliate a causa delle continue sommosse ora ad Avignone, ora a Nîmes, ora a Uzèves. I miei viaggi divennero dunque sempre più lunghi e sempre più fruttiferi. Assunta era economa e la nostra fortuna andava ingigantendosi. Un giorno in cui stavo partendo per un viaggio, «Va», disse lei, «al tuo ritorno ti preparo una sorpresa». E tornato a casa, la prima cosa che vidi nel luogo più in vista della camera di Assunta, in una culla sontuosa in confronto al resto dell'appartamento, fu un bambino dai 7 agli 8 mesi. Emisi un grido di gioia. Il solo momento di tristezza che provai dopo l'uccisione del procuratore del re fu quello in cui abbandonai il bambino. Non ebbi mai rimorsi per l'assassinio in se stesso. La povera Assunta aveva indovinato tutto. Approfittando della mia assenza, munita della metà della fascia e avendo scritto, per non dimenticarlo, il giorno e l'ora precisa in cui il bambino era stato portato all'ospizio, era andata a Parigi a reclamarlo. Non le venne fatta alcuna obiezione e le venne reso. Ah, vi confesso, signor Conte, che vedendo quella creatura dormire nella culla, il petto mi si gonfiò e mi scorsero le lacrime. Ma, ahimè, eccellenza, fu questo bambino che Dio fece strumento della mia punizione. Mai si rivelò più precocemente una natura più perversa. E non si può dire che venisse male allevato, poiché mia cognata lo trattava come il figlio di un principe. Era un ragazzo di bellissimo aspetto, con occhi celesti, di quella tinta delle terraglie cinesi, tanto bene in armonia con il bianco latteo del fondo. Solamente i capelli, di un rosso troppo acceso, davano al suo viso una strana espressione che raddoppiava la vivacità dello sguardo e la malizia del sorriso. Disgraziatamente un proverbio dice che i rossi sono del tutto buoni o del tutto cattivi. Il proverbio non mentiva sul conto di Benedetto, che fin dalla prima infanzia si manifestò assolutamente cattivo. All'età di 11 anni aveva per compagni giovani di 18 o 20 anni, scelti fra i peggiori soggetti di Bastia e di corte. Eh già, sì, già per qualche birichinata che avrebbe meritato un nome più serio, la giustizia ci aveva fatto chiamare. Ah, se fosse stato mio figlio o anche mio nipote lo avrei ricondotto sulla retta via, perché la coscienza dà forza. Ma l'idea di picchiare un ragazzo di cui avevo ucciso il padre mi rendeva impossibile ogni correzione. Diedi solo buoni consigli a mia cognata, che nelle nostre discussioni prendeva sempre la difesa del piccolo disgraziato. E siccome mi confessò che varie volte le erano mancate somme considerevoli, le indicai un luogo dove nascondere il nostro piccolo tesoro. Quanto a me, partii per la Francia. Tutte le nostre operazioni dovevano questa volta eseguirsi nel Golfo di Lione e si rendevano ogni giorno più difficili perché eravamo nel 1829. L'ordine era stato completamente ristabilito e di conseguenza il servizio delle coste era più severo che mai. Una sera, verso le 5 del pomeriggio, accorse il nostro mozzo dicendo che aveva visto una squadra di doganieri dirigersi dalla nostra parte. In un attimo fummo in piedi, ma era già troppo tardi. La nostra barca fu circondata. Fra i doganieri distinsi qualche gendarme, e tanto timoroso di questi quanto indifferente alla vista di qualunque altro militare, scesi sotto il ponte e, strisciando fuori da una finestrella, mi lasciai cadere nel fiume. Quindi mi misi a nuotare sott'acqua, non respirando che a lunghi intervalli, tanto bene che senza essere visto raggiunsi un canale nuovo che metteva il Rodano in comunicazione con il canale di Beaucaire. Una volta là, ero salvo. Potevo proseguire in quella direzione senza essere visto. Non era per caso, né senza premeditazione, che avevo seguito quella via. Ho già parlato, a vostra eccellenza, di un albergatore che aveva aperto una piccola locanda fra Bellegarde e Beaucaire. «E come si chiamava il padrone della locanda?» domandò Montecristo, che sembrava cominciare a mostrare qualche interesse al racconto di Bertuccio. «Si chiamava Gaspar Caderousse». Thank you. Era dunque a Caderousse che contavo di chiedere asilo, continuò Bertuccio. Ma di solito, anche nelle occasioni ordinarie, non entravamo da lui per la porta che dava sulla strada. E decisi di non cambiare le abitudini. Scavalcai la siepe del giardino, camminai carponi fra gli olivi e i fichi selvatici e arrivai, nel dubbio che Caderousse potesse avere qualche viaggiatore nella locanda, ad un soppalco nel quale avevo più di una volta passato bene la notte come nel migliore letto. Andai dunque nel soppalco e fu una fortuna, perché quasi nello stesso istante Caderousse entrava in casa con uno sconosciuto. «Ehi, Carconte!» gridò Caderousse. «Quel degno uomo del prete non ci ha ingannati! Il diamante è buono!» Si sentì un'esclamazione di gioia e quasi subito la scala scricchiolò sotto un passo reso pesante dalla debolezza e dalla malattia. «Che dici?» domandò la donna più pallida di un morto. «Dico che il diamante è buono ed ecco qui il signore, che è uno dei primi gioiellieri di Parigi, disposto a darci 50.000 franchi solo se gli proviamo che è veramente nostro!» «Vuole che tu gli racconti, come gli ho già raccontato io, in quale modo miracoloso il diamante è finito nelle nostre mani!» Il gioielliere esaminò con notevole attenzione l'interno della locanda e la miseria manifesta di coloro che stavano per vendergli un diamante che sembrava uscito dallo scrigno di un re. «Raccontate, signora!» disse. «Immaginate, caro signore, che mio marito era in amicizia, fin dal 1814 o 1815, con un marinaio chiamato Edmond Dantès. Quel povero giovane, in prigione, aveva fatto conoscenza, a quanto pare, con un inglese ricchissimo. E quando il suo compagno di cella si ammalò, Dantès lo trattò come un fratello, e così l'inglese, uscendo dal carcere, lasciò al povero Dantès, che meno fortunato di lui è morto in prigione, questo diamante, che lui a sua volta ci ha lasciato in eredità morendo, e che il degno abate, che ho saputo chiamarsi Abate Busoni, ci ha consegnato questa mattina.» «È lo stesso racconto», mormorò il gioielliere. «E in fin dei conti la storia può essere vera per quanto paia inverosimile. Non rimane altro che il prezzo, sul quale non siamo ancora d'accordo.» «Come? Non siamo d'accordo», disse Caderousse. «Credevo che avreste consentito al prezzo richiesto.» «Cioè?» rispose il gioielliere. «Al prezzo dei 40.000 franchi che vi ho offerto.» 40.000 franchi!» gridò la Carconte. «Non lo venderemo certamente! L'abate ci ha detto che ne vale 50.000! «E va bene, mostratemi questo diamante!» riprese il gioielliere. «Che lo riveda una seconda volta! A prima vista spesso si giudicano male le pietre!» Caderousse prese di tasca un piccolo astuccio di marocchino nero, lo aprì e lo passò al gioielliere. «Arriverò fino a 45.000 franchi», disse, «ma non darò un soldo di più. Siccome questo è il vero prezzo dell'anello, ho portato con me solo questa somma.» «Bene, bene, bene», disse Caderousse, rimettendosi in tasca l'astuccio. «Venderemo ad un altro.» «Sì», rispose il gioielliere, «ma un altro non sarà così accomodante come me. No, un altro non si accontenterà dell'informazione che mi avete dato. Non è normale che un uomo come voi possieda un anello da 50.000 franchi. Informerò i magistrati, sì, e bisognerà ritrovare l'abate Busoni. E gli abati che regalano diamanti da 2.000 luigi, beh, insomma, sono rari. La giustizia comincerà con il mettervi le mani addosso. Sarete messo in prigione. E se riconosciuto innocente, verrete rimesso in libertà dopo 3 o 4 mesi di prigionia. E allora l'anello o si sarà perso in spese di giudizio, o vi sarà restituito con una pietra falsa che costerà 3 franchi invece di 50.000. E voglio anche ammettere, sì, di 55.000. Ma voi converrete con me, mio caro brav'uomo, si corrono sempre rischi a comprare.» Caderousse allora si rivolse a sua moglie. «Che ne dici tu?» le domandò a bassa voce. «Daglielo, daglielo», disse lei. «Se ritorna a Beaucaire senza il diamante, ci denuncerà. E come ha detto, chissà se potremo ritrovare l'abate Busoni.» «Ebbene, sia così», disse Caderousse. «E i 45.000 franchi dove sono?» «Eccoli», disse il gioielliere, e contò sulla tavola 15.000 franchi in oro e 30.000 in biglietti di banca. Durante quella discussione era sopraggiunta la notte, e con la notte l'uragano, che minacciava da più di mezz'ora. «Oh», disse il gioielliere, «sta per venire giù proprio un bel tempo, e devo camminare per 2 leghe.» «Restate!» disse Caderousse. Dormirete qui. Sì, restate, disse la Carconte. Vi tratteremo con ogni cura. Così, spossato dalla fatica e contando di approfittare della prima pausa della tempesta, continuò Bertuccio, decisi di dormire lì alcune ore e di allontanarmi nel mezzo della notte. Ero nel sonno più profondo, quando fu svegliato da un colpo di pistola seguito da un grido terribile. Udii alcuni passi barcollanti nella stanza di sopra, poi una massa inerte cadde dalle scale. Il più profondo silenzio era succeduto a questo spaventoso rumore. Poi un uomo discese nella stanza, si avvicinò al caminetto e accese una candela. Era Caderousse. Aveva il viso pallido e la camicia insanguinata, teneva in mano l'astuccio e si assicurò che vi fosse ancora il diamante. Allora lo avvolse in un fazzoletto rosso che si strinse intorno al collo. Corse all'armadio, prese i biglietti e l'oro e mise gli uni nelle tasche dei suoi calzoni, l'altro nella tasca del suo abito. Prese due o tre camicie, si lanciò verso la porta e sparì nell'oscurità. Allora tutto fu chiaro e lampante. Mi figurai l'accaduto come se fossi stato io il colpevole. Corsi a prendere la candela e mi lanciai verso la scala. Un corpo la sbarrava di traverso. Era il cadavere della Carconte. Il colpo di pistola che avevo udito era stato scaricato su di lei. Aveva la gola trapassata da parte a parte e vomitava sangue dalla bocca. Scavalcai il suo corpo e passai. E il disgraziato gioielliere era steso sul pavimento, con la testa appoggiata contro il muro in un mare di sangue che scaturiva da tre larghe ferite nel petto. Nella quarta era rimasto un lungo coltello da cucina di cui non si vedeva che il manico. Mi precipitai dalla scala, cacciandomi le mani nei capelli e mandando un grido di terrore. Al pian terreno c'erano cinque o sei doganieri e due o tre gendarmi, un intero picchetto di armati. Si impadronirono di me e capii che era inutile ogni tentativo di resistenza. Ero stato seguito da un doganiere che mi aveva perso di vista nelle vicinanze della casa. E pensando che vi avrei passato tutta la notte, era andato ad avvisare i compagni, giunti in tempo per sentire di lontano il colpo di pistola e per sorprendermi in mezzo a tante prove di colpevolezza. Capii quanto mi sarebbe costato far riconoscere la mia innocenza. Avevo solo una speranza di salvezza, e la prima richiesta al giudice istruttore fu di pregarlo di cercare ovunque un certo abate Busoni, che quel giorno si era fermato alla locanda del Pont du Gard. Stavo per essere giudicato nella prima seduta del tribunale, quando il giorno 8 settembre, cioè 3 mesi e 5 giorni dopo il fatto, l'abate Busoni, nel quale non speravo più, si presentò alle carceri. Convinto dalla sua dolce carità, ravvisando in lui una profonda conoscenza dei costumi del mio paese e pensando che il perdono del solo delitto che avevo commesso nella mia vita poteva forse uscire dalle sue labbra tanto caritatevoli, gli raccontai, sotto il segreto della confessione, l'avventura di Otei in tutti i suoi particolari. La confessione di quel primo assassinio, che niente mi costringeva a confessare, gli provò che io non avevo commesso il secondo. Mi lasciò, dicendomi di sperare e promettendomi di fare ciò che sarebbe stato in suo potere per convincere i giudici della mia innocenza. E in questo intervallo, la provvidenza volle che Caderousse fosse arrestato all'estero e ricondotto in Francia. Egli confessò tutto, accusando la moglie di premeditazione e particolarmente di istigazione, e condannato alla galera a vita. Io venni messo in libertà. Partii per la Corsica. Avevo fretta, come potrete bene immaginarvi, di andare a consolare quella che io chiamavo mia sorella, ma quando giunsi a Rogliano, trovai la casa in lutto. Era accaduta una cosa orribile, e di cui i vicini conservavano ancora memoria. Dopo una notte di terrore e di angoscia, la povera Assunta fu trovata per metà bruciata, ma che respirava ancora. Gli armadi forzati e il piccolo tesoro sparito. Benedetto aveva lasciato Rogliano per non tornarvi più, e da quel giorno non l'ho più visto, né ho sentito parlare di lui. Dopo queste tristi notizie, venni da Vostra Eccellenza. Thank you. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it